finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui. Prosegui tu, ma non ti mando sola, ti lascio una canzone per coprirti se hai freddo, ti lascio una canzone da mangiare se hai fame. Ti lascio una canzone da bere se hai sete. Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi? Tu amerai dopo di me, a chi tu amerai dopo di me. Indossare sopra il cuore, ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno, ti lascio una canzone per farti compagnia, ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrei cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me? A chi non amerai senza di me?